che le faltavano che sepultate. Allora bene, torniamo in voce. Come annunciato, siamo in collegamento con un compagno di Torino. Ciao, ci senti? Ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Ciao. Allora, con te ovviamente volevamo innanzitutto capire com'è la situazione all'interno delle mura del CIE di Corso Brunelleschi e poi ovviamente proseguire rispetto le lotte che si stanno portando avanti in città. Sì, va bene. Dunque, la situazione del CIE di Torino è in corso di ristrutturazione, diciamo così. Però bisogna un attimino capire anche queste ristrutturazioni in quale quadro si inseriscono, nel quadro più generale di ristrutturazione e di riforma dei CIE. Anche se inizierei sfatando principalmente uno dei principali assunti, una delle principali considerazioni di questo periodo, che è quella secondo la quale i CIE in generale sul territorio italiano stiano chiudendo. I CIE non stanno chiudendo, dimostrano le ristrutturazioni, lo dimostrano anche altre variabili, altre situazioni. CIE infatti, al contrario di quanto dice la sinistra, di quanto dicono le associazioni, alcune delle associazioni, al contrario di quanto dicono i media soprattutto e l'istituzione, non ultimo la regione Piemonte e il comune di Torino, i CIE non stanno chiudendo, ma si ritrovano piuttosto in un processo di riforma, in un processo di cambiamento. Questo processo di riforma prevede, di cui le ristrutturazioni sono la parte più significativa, diciamo così, la concretizzazione ultima, questo processo di riforma riguarda da una parte, diciamo così, il cambiamento delle sue funzioni, delle sue caratteristiche interne, dall'altra parte un processo di efficientismo, di economicità maggiore, diciamo così. È chiaro che non è questo il momento per discuterne, sicuramente è un discorso molto ampio, però è importante capire in quale quadro si inseriscono le ristrutturazioni in maniera più generale. Infatti da una parte c'è un cambiamento di funzioni, come abbiamo visto col cambiamento della legge che cambia i tempi di permanenza, un cambiamento anche della natura stessa dei CIE, non ultimo il CIE di Torino, ma anche in quello di Roma sono passati diversi dati del Ministero, parlano di 18 persone sospettate di terrorismo che sono state messe in alcune zone dell'isolamento sia a Roma che a Torino. E dall'altra parte un cambio, diciamo un processo porta ad una gestione più efficiente, più economica, delegata alla nuova gestione, quella là di GEPSAE e Acquarinto, sia a Roma che a Torino e in diversi CAR italiani, e quella del nuovo capitolato d'appalto. Infatti adesso, per quello che si è riuscito a capire fino adesso, i CIE interessati sono quello di Trapani, di Torino e il centro di prima accoglienza di Lampedusa. Il nuovo capitolato d'appalto prevede, un pagamento effettivo per la presenza dei reclusi, nel senso che la prefettura paga per il 50% delle presenze effettive. All'interno del CIE ci potrebbero essere anche due persone, la prefettura paga per la metà delle presenze sulla capienza generale del CIE. Questo accadrà a Torino, sta accadendo a Trapani e anche a Lampedusa. Insomma, giusto per far capire che i CIE non stanno chiudendo, anzi li hanno resi anche addirittura più attraenti dal punto di vista economico. Infatti tante volte, ad esempio qui a Torino, i bandi di gara d'appalto sono andati deserti, la stessa Croce Rossa ha fatto dei grandi passi indietro rispetto alla gestione, perché a causa delle rivolte, dei danneggiamenti che a più riprese hanno distrutto le differenti aree del CIE, la Croce Rossa si è tirata indietro. Adesso con questo nuovo capitolato d'appalto, insomma, la situazione è diventata sicuramente più attraente, più gustosa dal punto di vista economico. Veniamo alle ristrutturazioni. Questo è il quadro un po' più generale che riguarda tutti i CIE italiani, ma anche in particolare quello di Torino. Da un po' di tempo a questa parte, ricordiamo che il CIE di Torino a più riprese, sin dal 1998, l'anno della sua nascita, è stato distrutto e danneggiato dalle rivolte e dagli incendi dei reclusi, che sono state, rimarranno sempre l'unica anima capace di chiudere realmente questi posti, insomma. A più riprese sono state distrutte, la maggior parte delle aree del CIE di Torino sono state danneggiate e rese inagibili, tant'è che si è arrivati su una capienza effettiva di 180 posti adesso più o meno l'utilizzo di un 30-40 posti in generale. In questo momento qui la situazione è un po' particolare, sicuramente non si hanno notizie chiare, però più o meno c'è una quarantina di persone rinchiuse all'interno del CIE di Torino. La prefettura e il comune hanno deciso di ristrutturare due aree in particolare, l'area rossa e l'area bianca. Ora una è ancora in corso di ristrutturazione, l'altra è praticamente finita, conclusa, ci sono già i televisori, già i materassi, dovrebbe a quanto pare essere utilizzata nei prossimi giorni, vedremo cosa succederà. Ristrutturazione completerà queste due aree per arrivare ad una capienza di 90 posti su 180. Allo scopo di spostare tutti i ragazzi dall'area verde e far ritornare di nuovo le ragazze all'interno dell'area verde, in modo da aumentare il numero di reclusi possibile. Quindi è chiaro che questo riaprirebbe avrà delle ripercussioni. Riaprirebbe il femminile nel CIE di Torino. Sì, esattamente, perché il femminile è stato eliminato un po' di mesi fa perché non c'erano abbastanza aree a disposizione, quindi le ragazze sono state spostate in altri CIE. Stiamo parlando di molti e molti mesi fa, adesso precisamente non ricordo, però c'era esclusivamente il maschile fino a questo momento. D'ora in poi, da quando apriranno l'area rossa, almeno da quello che si può capire dalle notizie che arrivano da dentro, sarà riaperto il femminile nell'area verde, dove in questo momento ci sono i maschi, insomma. Le ristrutturazioni, come dicevo prima, costeranno 120.000 euro e porteranno la capienza effettiva di 90 posti. Adesso non si sa cosa succederà più avanti, ma a quanto pare dalle notizie che trapelano, ma non è sicuro, si dovrebbe arrivare ad una ristrutturazione completa. Ora le ristrutturazioni continuano ad andare avanti, però sta succedendo anche qualcosa fuori. Infatti, da una parte, chiaramente i CIE, come sappiamo tutti, non sono costruiti esclusivamente, diciamo, per le deportazioni o per la loro funzione deterrente che hanno. Certo, questo è fondamentale, ma sono costruiti un po' come tutto il business del legato ai flussi migratori, anche per fare i soldi, anche per tenere in piedi gli enti gestori, per tenere in piedi, per fare business, insomma, per lucrare sul corpo dei detenuti e delle detenute. Tra questi chiaramente ci sono i grandi enti gestori, c'è stata la Croce Rossa, c'è GEPSA, che è il colosso della reclusione francese, l'esperta di carcere, insomma sono diciamo così degli enti gestori e delle entità economiche molto molto ampie. In generale colpirli, metterli in evidenza è molto difficile, perché chiaramente stiamo parlando di grandi multinazionali o di grandi entità come la Croce Rossa, ad esempio. In questo caso però chi si occupa delle ristrutturazioni del CIE non sono i grandi enti, non sono le grandi multinazionali, ma bensì delle piccole ditte. Il CIE è anche questo, è anche un arcipelago di piccole ditte che lucrano e fanno business proprio all'interno della città in cui viviamo, proprio all'interno delle vie che percorriamo di solito, e sono, diciamo, delle piccole entità, delle piccole aziende. Un elettricista piuttosto che una ditta che si occupa di informatica, una ditta che si occupa di pavimentazione. Per la ristrutturazione del CIE di Torino ci sono diverse ditte che si occupano, chi dell'impianto idraulico, chi dell'impianto elettrico, chi del ripulire i muri anneriti dalle rivolte dei mesi scorsi, chi si occuperà della ristrutturazione dei water, insomma di tutta una serie di piccolo business che insomma porterà denaro anche nelle loro tasche. Da un po' di tempo a questa parte un gruppo di nemici delle espulsioni, nemici della macchina delle espulsioni, ha iniziato, diciamo così, a rispondere alle ristrutturazioni, a cercare di non far passare in maniera molto molto semplice e blanda l'inizio di un nuovo processo di ristrutturazione del CIE, che come sappiamo porterà anche più retate, più controlli, porterà ad un aumento delle forze di polizia anche nei quartieri, poi soprattutto magari in alcune zone particolari come quelle delle stazioni, dei porti indubbiamente, ma anche dei quartieri più poveri, perché la maggior parte delle persone che vengono portate via sono quelle che vengono raccolte nei quartieri più poveri, nei quartieri tra virgolette considerati più degradati all'interno della città. Alcune persone hanno iniziato a tentare di frapporsi tra la ditta e la ristrutturazione, cercare in un certo modo di mettersi in mezzo, di impedire la ristrutturazione stessa. È chiaro che questo risulta essere molto complicato, non è semplice, però ha un doppio scopo. Un po' di tempo fa un gruppo di nemici delle espulsioni ha bloccato realmente l'uscita dei mezzi di una di queste ditte che si chiama Ilma, che si occupa del rifacimento dell'impianto elettrico all'interno delle aree in ristrutturazione. L'Ilma di Carignano in provincia di Torino si è frapposta sin dalla mattina presto all'uscita dei mezzi, così come un po' di tempo fa, qualche giorno fa, un gruppo di nemici delle espulsioni si è posta davanti all'uscita dei mezzi della Di Virgilio, un'altra piccola ditta che si occupa del rifacimento dell'impianto idraulico, degli scarichi, dei water, insieme a un'altra ditta che si chiama Cerit. Un gruppo di solidali, insomma, di nemici delle espulsioni cerca di frapporsi e di impedire, di bloccare le ristrutturazioni. Da una parte questo è il merito, di mettere in evidenza, di rendere visibile quelli che in un certo senso sono delle piccole aziende, delle piccole ditte che vivono accanto a noi, sono in un certo senso i nostri vicini di casa. Infatti a Di Virgilio addirittura di fronte ad una casa occupata, rendere visibili per quello che sono in realtà, non un semplice elettricista, non un semplice idraulico, non un informatico, ma un collaborazionista delle deportazioni, delle retate, dei pestaggi all'interno dei CIE. Questo è quello che sono, è la realtà, e l'importante è renderlo visibile, renderlo reale al quartiere, alle persone che sono intorno. Lo scopo però principale è indubbiamente quello poi del blocco reale, perché frapporsi all'uscita dei mezzi permette di sicuro un rallentamento dei loro lavori. È chiaro che in alcuni casi questa situazione qua non è che si può sempre sapere se questa ditta quel giorno lì sta andando a lavorare chiaramente al CIE, perché chiaramente si alternano, un giorno va una, un giorno va l'altra, ma in un certo senso lì si blocca, lì si crea un danno, chiaramente un danno materiale, un danno economico, e molte volte si riesce anche non si sbaglia mai, per il semplice fatto che questo gruppo di nemici delle espulsioni il giorno che andò davanti all'Ilma di Carignano si trovò detto dagli operai che quel giorno lì non stavano andando a ristrutturare il CIE di Torino, ma bensì andavano a ristrutturare il carcere di Asti. Quindi in un certo senso, in un modo o nell'altro, bloccando queste aziende non si sbaglia mai, proprio perché non hanno nessun ritegno nel fare business con qualsiasi carcere, con qualsiasi centro, di fare business sul corpo dei detenuti e delle detenute in generale. Certo, assolutamente. Sei stato molto chiaro, e aggiungo unicamente che appunto, nonostante i CIE più umani o meno umani, è giusto comunque portare avanti una lotta affinché la solidarietà si senta anche forte all'interno delle mura, tra le persone che poi concretamente sono state in grado di chiudere parzialmente o totalmente questi centri di detenzione. Ovviamente anche per dire che questi lavori non sono unicamente fatti per ristrutturare diciamo queste strutture affinché si viva meglio un internamento dentro questi veri e propri lager, ma spesso sono molto collegati ai lavori di fortificazione e di sorveglianza, come abbiamo visto fare in altre città, come per esempio a Milano, dove se dovesse riaprire il CIE di Via Corelli sarebbe un carcere modernissimo, con tutti i dispositivi adatti a sedare qualsiasi tipo di protesta. Sì, sono indubbiamente d'accordo, sicuro. E noi, se non hai altro da aggiungere, volevo solamente ribadire che la settimana prossima a Torino ci sarà un presidio che è stato rinviato la settimana scorsa, proprio perché se da una parte, diciamo così, cioè è necessario da una parte continuare a stare nelle strade, tentare di frapporsi alle ristrutturazioni, tentare per quanto ci si riesce di frapporsi anche alle retate nelle strade, questo è molto importante. Nello stesso momento però andare sotto al CIE, avere un legame con i reclusi, portare loro solidarietà e coraggio, mi sembra che continui ad essere fondamentale, perché loro restano ancora per il momento l'unico attore capace di distruggere quei posti, malgrado ci siano, sicuramente ci sono dei solidari all'esterno, ma sono loro gli unici che possono continuare a danneggiarlo, a incendiarlo e distruggerlo. Quindi portare loro solidarietà attraverso i presidi, attraverso i saluti, è fondamentale. Proprio la settimana prossima ce ne sarà uno a Torino alle 5, domenica prossima, di fronte al CIE di Corso Brunelleschi. Allora, noi ti ringraziamo e per qualsiasi cosa, ovviamente questi microfoni sono aperti ai vostri contributi, che sono sempre piuttosto preziosi. Speriamo che appunto questa chiacchierata possa rappresentare uno stimolo, ma anche chiarire un po' le idee a chi prende parola sui centri di identificazione ed espulsione, e ovviamente avallando poi quelle che sono le riforme di queste strutture, in un momento in cui vorrebbero giungere a una normalizzazione totale, a riaprire strutture chiuse dalla rabbia delle persone internate. Quindi noi ti ringraziamo tantissimo e rimandiamo a chi dovesse essere in città domenica prossima di partecipare al presidio fuori le mura di Corso Brunelleschi. Grazie. Va bene. Ciao, ciao. Volevo salutare i ragazzi, spero che siano in ascolto, i ragazzi e le ragazze del CIE di Ponte Galeria. Li mando un forte abbraccio, gli dico di resistere, di tenere duro. Dai. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao.